Buonasera, grazie di aver accolto il nostro invito. Abbiamo iniziato la scorsa settimana la nostra attività di promozione alla lettura con prima presentazione del libro lunedì scorso e proseguiamo felicemente questa sera con Marco Forni e Alberto Faustini per la presentazione appunto del libro Una parola negli occhi. Marco Forni l'abbiamo conosciuto questa primavera in occasione della presentazione del dizionario italiano, latino, gardenese e viceversa. È stata per me una scoperta, un mondo che si è aperto. Non lo conoscevamo, così eravamo abbonate a delle riviste, avevamo dei contatti con i Furabuli, ma è stato interessante, ecco, lo scambio che abbiamo avuto anche in una giornata, un colloquio molto interessante, per cui è poi nata anche l'idea di presentare questo romanzo e di approfondire la conoscenza anche dell'attività dell'istituto e di quanto fa anche Marco Forni a livello di studi sociologici, linguistici e anche appunto per quanto riguarda la cultura ladina. La biblioteca si occupa del territorio, quindi questa è una parte importante che vogliamo conoscere e cercare di promuovere anche attraverso le nostre attività. Alberto Faustini, lo conoscete, è il direttore del quotidiano Alto Adige e ci aiuta in tante occasioni nel presentare, nel moderare, nel promuovere autori ed autrici del territorio. Vi porto i saluti anche da parte di Bruna Maria Della Goveneri, che oggi non può partecipare per motivi di salute, ma che è qui con noi, insomma, sempre con la sua carica, col suo entusiasmo. Ne approfitto sempre anche per così anticipare alcune iniziative di questa biblioteca che settimanalmente organizzerà altre presentazioni. Le cartoline le trovate sulle sedie. Se avete piacere di essere contattati anche via mail o di riceverla a casa, basta iscriversi e lasciare i propri dati su un modulo qui al nostro bancone. Infine, col primo di ottobre riprendiamo il percorso di formatizzazione e di così imparare ad usare il proprio smartphone, iPod, iPad, eccetera, eccetera, per seguire anche da casa, fare delle ricerche o scaricare un ebook che vengono offerti dalla biblioteca o anche dalla biblioteca civica, da tutto il sistema, diciamo, del territorio provinciale. Ecco, questo è un po' tutto quello che avevo da anticiparvi. Vi lascio in compagnia dei nostri ospiti e vi auguro una piacevole serata. Grazie ancora a voi. Grazie. Allora, dovete sapere che quando ho conosciuto Marco Forni ho avuto una sensazione che a volte si prova, almeno chi fa il mio mestiere prova questa sensazione abbastanza spesso, cioè arriva l'autore, gli consegna il libro, l'autore probabilmente pensa tanto questo qua il libro non lo leggerà mai, che è un classico quando gli danno un libro, e io invece penso santo cielo mi tocca leggerne un altro, e ovviamente potete credere una o all'altra versione, e fatto sta che io quella sera ho detto beh lo leggiucchio, provo a dare un'occhiata, mi incuriosiva questo lessicografo, questo autore che ha sempre lavorato con la parola, perché in fondo chi come me vive di parole resta affascinato da chi come me vive di parole, anche se in altri ambiti. E io ho iniziato a leggere questo libro e sono rimasto sbalordito, vuoi per la forza della storia, vuoi per l'uso del linguaggio, vuoi per il gioco di parole, perché Marco riesce a raccontare un intricato giallo, lo fa in modo lieve, riesce a raccontare una storia in cui, come le fiabe di Andersen, come nel vestito nuovo dell'imperatore, è l'unico che riesce a guardare in faccia la realtà un bambino, cioè chi ha un'altra età ha altri occhi, occhi genuini, e con quegli occhi riesce a capire cosa gli accade intorno, e riesce a farci riflettere sul valore della parola, la parola negata, la parola utilizzata, la parola che può far capire il passato, che può nascondere il presente, che può essere trasformata con degli stuzzicadenti che in realtà servono per descrivere delle cose, per fermare delle parole. C'è un curioso raccoglitore di rifiuti nel libro, che è un personaggio assolutamente affascinante, raccoglie ritagli di giornale, raccoglie parole scritte, per cui immaginatevi, insomma, diventa subito il mio protagonista preferito. C'è anche qualche lezioncina ai giornalisti che a volte con i titoli di giornale ne combinano di cotte e di crude, c'è molto in questo libro, e c'è anche un pezzo di questo territorio rovesciato, per perché lui dice sempre che può essere il mare quello sotto in fondo, no? Dove sta il mare? Il mare è il cielo, il mare sono le Dolomiti, si può confondere, visto che le Dolomiti nascono dal mare, nascono da questo scontro fra brandelli di terra. E c'è molto di questo, e dentro questa terra ci sono tante storie che si possono guardare da vicino e da lontano, come fa lui, usando la penna. Qui in realtà è un romanzo, è un giallo, è la storia che racconta un lessicografo, avendo, come dire, letto e scritto molto, che però si cimenta con una cosa assolutamente nuova. Lo studioso che lascia le pagine un po' polverose, almeno nella nostra immaginazione, dei dizionari. Mi fa piacere, Valeria, che abbiate presentato l'ultimo capolavoro, lo definirei, no? Ho presentato anche Te Mauro, è un lavoro davvero monumentale, mi fa piacere. Ecco, accanto a quelle parole che io definirei ferme, perché sono le parole pensate, le parole meditate, ci sono invece parole in continuo movimento, parole che affastellate l'una sull'altro danno vita a una grande storia, dove la parola un po' è l'uovo, un po' è l'invito, se avete già il libro in mano, a guardare la copertina. A me piace tantissimo questa bocca che non esiste, la parola negli occhi, non c'è la bocca, c'è un personaggio in copertina senza bocca, come a dire che possiamo parlare con gli occhi, come a dire che potremmo non avere l'uso della parola, come indurci a riflettere sul peso delle parole che a volte si pronunciano. Mi aveva colpito quando Marco, per esempio, raccontava di un certo Sgarbi che, pronunciando la parola capra in modo diverso, unendo tre volte la parola capra, dava vita a qualcosa che poi restava, no? Per cui capra, capra, capra, magari lo faccio dire a te che ti impressioni di più, induce a pensare a una persona, a una sorta di logo, perché ormai si identifica con quel logo, al punto che 10 giorni fa Vittorio Sgarbi è arrivato in Trentino e l'hanno portato a vedere le capre, non so se poi ci siano parlati tra loro, però curiosamente chi l'ha invitato ha pensato adesso gliele facciamo conoscere, forse la prossima volta che darà della capra qualcuno ci penserà, o può essere che le capre diano del Vittorio agli animali che incontreranno lungo i boschi. Un'altra cosa ancora vi volevo dire, che l'importanza del dialogo, nel senso che non c'è solo l'importanza della parola, c'è anche l'importanza di chi sa ascoltare, di chi sa capire. Viviamo in un'epoca in cui tutti tendiamo a parlare, a pontificare, a cominciare a chi fa il mio mestiere, e sono sempre le persone invece in grado di ascoltare, le persone in grado di capire, le persone che hanno ancora voglia di leggere, di approfondire. Un romanzo può servire anche a questo, ad inciampare in una lettura, magari per caso, perché un autore ti porta un libro, e a scoprire che dentro c'è un grande libro. E tra l'altro c'è l'ultima cosa che dico, Marco, voglio parlare un'ora e mezza, lasciate un piccolo spazio, invece vi lascio più spazio. No, c'è un'ultima cosa che voglio dire, quando mi arrivano in mano libri come questi, poi scopro che non sono stampati da Mondadori o da grandi case editrici, e ti fai sempre la domanda, ma come mai? Cioè, perché ci sono degli autori che arrivano i grandi premi, che hanno le grandi case editrici, altri autori che non ci arrivano? Non ho una risposta. La risposta è che leggendo possiamo iniziare a fare delle differenze, possiamo iniziare a fare delle graduatorie, possiamo capire che ci sono autori che scrivono dei libri che si impolverano, visto che è una parola che c'è a un certo punto del libro, ci sono delle cose che si impolverano, ci sono invece dei libri che restano, possono restare anche dei libri di piccole case editrici. E vi dico questa cosa perché? Perché mi è capitato quest'anno una cosa divertente fra le tante, mi era già capitato qualche anno fa con Veronica Pivetti, che voi ricorderete, sorella della Presidente della Camera, e colei che è diventata famosa per i personaggi che ha interpretato in televisione. Ebbene, lei mi raccontava, mi ha chiamato a casa editrice e mi ha detto: fai un libro. Non male, no? Mi chiama a casa editrice e fai un libro. E giustamente dice: ma io perché devo fare un libro? Ah no, perché sei un personaggio famoso, vai tanto in TV in questo momento, vogliono sfruttare il tuo nome. Comunque non c'è problema, se vuoi lo scriviamo noi, basta che tu ci dia la firma. A lei, che è una persona seria, dice: guardate, io l'unica cosa che potrei scrivere, però vorrei scriverla a quel punto, è la storia di tutte le mie malattie, perché sono le prese con uno psicologo, sono le prese con problemi di alimentazione, sono le prese con un mio dramma personale. Mi è venuto fuori un bel libro, per fortuna, ma questo è per fortuna, perché la casa editrice avrebbe comprato anche le istruzioni per la Simmental, perché l'importante è che ci fosse quel nome. Mi è capitato di nuovo quest'estate, secondo il contratto Giulio Scarpati, che mi hanno chiesto di presentare un paio di volte in giro per il territorio, e Giulio, nel tuo territorio, e Giulio mi ha detto: sai, quando quando mi hanno chiamato per chiedermi se avevo un libro, ho detto ma no, io non faccio scrittore, non ho nemmeno intenzione di fare lo scrittore. Poi hanno così insistito, ho detto beh, potrei raccontare il dramma di mia mamma malata di Alzheimer. Anche in questo caso il risultato finale è ottimo, anzi non si riconosce nemmeno il medico in famiglia, che è un po' leggero, ha più figli di quanti ne abbia Berlusconi, c'è una cosa incredibile. Invece una persona molto seria vuole scrivere su quel libro, su un dramma familiare pesante. Però l'idea che una casa editrice importante lo chiami, perché tanto lui è il medico in famiglia e lei è che può permettersi qualsiasi libro, perché i libri in Italia, come pensa chi ci invita, vengono prevalentemente regalati, ed essendo regalati si basano sulle classifiche, e le classifiche spesso si basano sulle emozioni televisive, ecco, poi ti capita Marco Forni in ufficio e dici guarda, uno che ha scritto un grande libro che non vedremo in TV e che dovremmo andare a Claudio Augusta per ascoltare. Marco, la mia domanda è perché? Perché nasci le parole tue con le quali vivi? Nasci i vocabolari, nasci lo studio e ti imbatti in una cosa complicata e cerchi di superarla, cioè la pagina del romanzo. Buonasera a tutti voi, benvenuti. Ha avuto un lungo periodo di gestazione questo romanzo, l'avevo abbozzato anni fa e mi stava addosso, lo sentivo troppo attaccaticcio. Era ambientato in Val Gardena, l'ambiente dove io vivo e dove sono nato, e l'ho riposto in un cassetto, è rimasto lì. Poi sulla spinta di alcuni amici che mi hanno indotto a riprenderlo in mano, mi sono reso conto che dovevo andare a finire su un'isola deserta. Immaginata, l'ho costruita perché l'influsso diciamo dell'ambiente, delle montagne è talmente forte che non riuscivo a uscirne, perché era troppo facile. Continuavo a scrivere pagine su pagine, ma non andava bene. E allora su questa isola immaginaria ho ricostruito con più serenità l'impianto narrativo, sono tornato a casa mia e un po' alla volta il romanzo, che è fatto di diverse storie, ha iniziato a raccontarsi da sé, ma in un certo qual modo buttato fuori, perché all'interno del romanzo mi serviva una ragazza e l'ho inserita nel romanzo, nella trama narrativa. A un certo punto mi serviva, poi a un certo punto tu volevi farla fuori, dillo, volevi farla fuori e lei voleva restare. Sì, ma non io però, non quindi ho incarcato Forni. Racconta, cioè ci sono personaggi che hanno una... mi sentite se parlo senza il microfono, sì, se è brutto, sì. No, personaggi che hanno una tale forza che entrano nel libro da soli e non vogliono andarsene. Racconta. Sì, perché quando uno inizia a scrivere tu sai perfettamente quello che stai facendo all'inizio, quello che succede poi non dico che sei completamente in balia, perché sei sempre tu insomma dietro davanti allo schermo con la penna in mano. Io scrivo anche a mano, devo dire, anche molto, scarabocchi molto, spesso non riesco neanche a rileggermi, ma comunque va bene così. Siamo in due, se ti può consolare. Ah, ecco. Quindi vi dicevo di questa figura che è entrata, mi serviva nella trama narrativa. A un certo punto ho incaricato qualcuno di congedarla, di farla uscire da quelle pagine. Lei è arrivata a bordo pagina, stizzita, si è girata verso di me e si è rivolta a me, insomma, dicendomi che tu, senti un po', sei stato tu a tirarmi, a mettermi dentro questa storia, io me ne stavo tanto bene per conto mio, adesso che non ti servo più mi butti fuori. Tant'è che mi ha fatto anche uno sgarbo, ve lo posso anche dire, io soffro abbastanza di cervicale, questo non so se lei l'abbia veduto o meno, e mi fa: bene, io me ne vado, ma prima di congedarmi la porta la lascio aperta, spalancata, così quando ci sono gli spifferi di vento lei si ricorderà. Anzi no, tu hai iniziato a darmi del tu anche, l'impudente, si ricorderà di me. Però tu hai fatto Dion, cioè seppur, come dire, usando qualche scamotage letterario, l'hai fatta fuori lo stesso. Però dici allora quali sono i personaggi che sono nati prima della tua penna in mano e quelli invece che sono nati da soli, quelli che magari dovevano essere i protagonisti e sono diventati i comprimari, quelli che viceversa si sono presi uno spazio che non ti saresti aspettato. Succede anche questo, parlo di capire mentre scrivi. E dall'altra, le parole sono protagoniste del romanzo e sono, come dire, più importanti dei personaggi, come sembra, o viceversa? C'è qualche personaggio che ha preso un peso superiore persino alle tue amate parole? Io avevo un legame affettivo con la nonna molto intenso, cioè stavo insieme con la nonna, per me era un diletto stare insieme, lei era piccina, però era un tesoro di persona. Invece il nonno era scorbutico, era montanaro, parlava poco, lui era un rocciatore e mi sa che ha scritto una paginetta lui, delle cose che ci siamo dette, però lui è un protagonista dentro il romanzo, la nonna non c'è, c'è solo a margine. Ma il nome protagonista non è stata una scoperta. Guardate che spesso quando una persona viene a mancare, noi ci assediamo nel trattenerla, nel volerla trattenere a noi. Guardate che quando una persona cara viene meno, si congeda per un breve tempo e poi ritorna a noi, ritorna dentro di noi sotto altre sembianze. E io questo l'ho riscoperto con nonno, ad esempio. Io pensavo che non ci fosse più. Invece le persone che tu hai dentro di te, magari non ti rendi neanche conto, ma poi con l'espediente della scrittura ritornano. Il protagonista di questo romanzo è indubbiamente la parola. Però se voi ci fate caso, noi siamo percorsi da profondi silenzi. Poi ci sono queste intermittenze di parole. E noi con i nostri silenzi cosa facciamo? Spesso li riempiamo di riempitivi, di cumulativi. Invece il silenzio è già pieno e narrante di per sé. Cioè il silenzio è, dovrebbe essere il nostro invece dovrebbe essere l'attore protagonista, invece si rifugia in silenzio. Quindi sì, la parola, perché io di mestiere mi occupo di parole e anche privilegio, mi pagano anche. Però se ci pensiamo, tutti ci occupiamo di parole, però queste parole stanno dentro, dovrebbero stare anche a margine dei nostri silenzi. Si dice così, così profonde, poi non stavo per dirti, prima mentre parlavi del nonno hai risparmiato un sacco di psicanalista scrivendo questo libro, non posso più dirti queste cose se vai in profondità, no? Perché poi vuole anche un po' prenderti in giro. Effettivamente un libro serve anche per leggere la propria anima, e poi si può condividere la propria anima con i lettori, poi è faticoso. Innanzitutto non bisogna prendersi troppo sul serio, perché la chiave di questo romanzo era chiusa in una parola di 7 lettere, perché io mi sono reso conto, e penso che ci rendiamo conto tutti quanti, che si va alla ricerca di questa fantomatica lingua perfetta, che poi non esiste, e poi ci ritroviamo in una realtà. Scusa, adesso mi stacco un attimino perché mi piace questa cosa. Poi riprendo. Ti autorizzo. Poi grazie. Ti faccio tornare all'anima, ma vai con la no, parola. Perché è bella questa cosa che mi sta penso a me. Perché secondo me penso sia importante. Noi viviamo in una realtà plurilingue. Quindi quella coltre che sta sopra di noi, qualcuno la chiama Himmel, qualcuno la chiama cielo, qualcun altro la chiama Ciela delle Villadini. Cosa c'entra? È importante però che quando tu chiedi sentiti un bambino, e questo dobbiamo continuare a coltivarlo dentro di noi, questo fanciullino pascoliano, insomma, che quando chiediamo ai bambini, al tedesco, ladino, italiano, dov'è, che tutti alzano lo sguardo verso l'alto e che non vadano a cercarselo in un tablet o in un cellulare. Questo è importante. Scusa, sono uscito, mi riprendi? Perché questa... Ti riprendo perché mi pagano per questo, per l'anima, come leggi l'anima da una parte, l'anima, e dall'altra sei anche faticoso invece a far leggere agli altri la propria anima, perché in questo libro è scavato dentro di te. E ho scavato dentro di me, certo, si dice che la scrittura sia terapeutica, no? Se non imbrogli le carte, perché non bisognerebbe mai imbrogliare le carte, questo secondo me bisognerebbe cercare di essere onesti quando... Però non è che sei sempre il padrone, come torno a ripetere, e tu scavi dentro di te, perché ti ritrovi dentro dentro spazi narrativi che ti scompigliano completamente. Perché io ho avuto difficoltà anche con i miei familiari, soprattutto con mia moglie, perché dopo alcune ore di scrittura io magari mi sedevo a tavola e iniziava, accanto a me si sedeva Mantea, poi c'era Imelda Sticchi, poi Parloni, io mi mettevo a parlare con loro perché sono personaggi del libro, sono personaggi del libro. Quindi sì, la scrittura ti scava dentro di te, però una volta pubblicato, una volta quando ti congedi, diciamo, da un lavoro di scrittura, la cosa che mi affascina è come quando uno lo legge o ha l'avventura di leggerlo, legge se stesso e lo riscrive anche il romanzo. Perché se uno si lascia prendere dall'assillo di dire ma cosa voleva dire l'autore, non fate questo errore, lasciatevi prendere, se non vi prende poi un libro non è che bisogna leggerlo, per carità. Però diciamo queste pagine poi a uno si raccontano, perché che lo si voglia o no, tu entri dentro questa trama e ognuno se lo ritaglia, se lo riscrive, penso sia questo molto importante. Se poi c'è una condivisione, un incontro che diventa poi anche uno strumento, e questo devo dire che è così, cioè ci si incontra, perché alla fine non è nata la parola, non lo dico, vero? No, non lo dici, lo dici, poi lo dirai. Lo vedremo, insomma, no? Se ti sei fregato con cielo, email, ciel, Sofia e Matteo, i tuoi figli, guardano il tablet o riesci a spiegar loro come guardare il cielo attraverso le pagine di un romanzo? Sofia è Nuova Zelanda. Cielo bellissimo. Sofia ha piantato tutto, è andata in Nuova Zelanda 7 mesi. Matteo non ha letto il libro, però è venuto con me a Torino in giro a presentarlo e l'ha letto anche lui. L'ha preso in mano un paio di volte. Sofia invece l'ha letto e si è divertita molto anche. Non ne abbiamo parlato mai. Avete tempo? Dicevo, avete tempo. In esergo, cioè all'inizio del libro, scrivi alcune cose, alcune citazioni dotte, tra queste il cavaliere inesistente di Calvino, e dici: la pagina è il suo bene solo quando la volti e c'è la vita dietro che spinge e scompiglia tutti i fogli del libro. In parte prima ci hai spiegato che c'è una spinta. Dall'altra però io ti chiedo, è un libro universale per cui si può leggere in ogni luogo del mondo o è un libro gardenese? Io una mia risposta ce l'ho, nel senso che questo luogo è talmente immaginario che è un luogo che può essere ovunque, in nessun posto. Però c'è anche dentro molto, molto, molto da dove Gardena. Spinto molto, diciamo. Sì, indubbiamente la Val Gardena è presente, era talmente presente che sono dovuto andare via, insomma, perché mi stava soffocando. Perché non è cosa, insomma, tu ti tutti i santi giorni ti svegli con il sasso lungo davanti, non è che sia una cosa tanto semplice, e poi tu cerchi di afferrarla, di prenderlo il sasso lungo, e è sempre inafferrabile e continua a cambiare nei colori, nelle tinte, nel... quindi sì, ma è una realtà dove c'è indubbiamente anche il tedesco, c'è l'italiano, e c'è questo mio mestiere di occuparmi di parole. Quindi voglio dire, è estremamente affascinante. Se voi ci pensate un attimino, c'è anche l'epigrafe di un certo Galileo, mi pare si chiama. Galileo. Cognome simile al nome, sì. Sì. E questo un giorno si è messo, che era abbastanza, cioè una persona in gamba, insomma, dicono. Lo stanno riscoprendo, si deve oggi. Anche se poi ha ritrattato una, aveva ritrattato anche una cosa poi, che poi non si sa bene se abbia detto, l'abbia detto o meno, che si muoveva, diciamo, questa cosa. Comunque, come dico, in questi casi è stato spintaneo, no? Questo signore dice che, secondo voi, abbiamo inventato tante cose, tantissime cose. Secondo me è una delle invenzioni, concordo con lui, che parla di 20 caratteruzzi accozzati tra di loro. Però se ci pensate un attimino, l'invenzione dell'alfabeto è qualcosa di fantastico. Cioè, se provate a immaginare, se io vi do una A, una I, una O e una C, non dice un piffero. Se poi assembliamo queste lettere in un certo modo, ciao. Ciao è una parola modestissima, però ha avuto un successo a livello planetario, cioè tra tedeschi, giapponesi, che poi dietro magari si celi uno schiavo, un servo, che è una forma sincopata di schiavo, servo vostro, che viene dal veneziano, questo poco importa. Ma ci sono parole che corrono, viaggiano, e altre invece che hanno poco successo. Poi uno riesce anche, ecco, ci arriva anche a quella cosa lì delle capre adesso. Sembrava strano, Mario, che so che ti appassiona. Scherzo. Allora, capra è un animaletto, insomma, molto bonario, insomma. Qua però commettere l'errore di reputare Sgarbi uno sprovveduto. Il critico d'arte Sgarbi sa benissimo che di lui si parlerebbe molto meno e si pubblicherebbero non si pubblicherebbe così tanto se lui non vendesse e non utilizzasse anche un gergo capra, e diventa un turbiloquio perché suscita delle emozioni dentro di noi, e lui in questo è molto accurato. Quindi guai a liquidare. Sanno benissimo utilizzare le televisioni, le radio, cioè di questo si parla. Tant'è che chi è quello che scrive? Anche questo ha scritto capra, ha ripreso questa cosa. Questo Forni dice. Ecco. Ma ti do un consiglio gratis. Puoi dire orso, mi scrive una traga abbastanza forte, secondo me ne parlerebbe. Allora, sei riuscito a scrivere, poi entriamo un po' nella trama, il libro che avresti voluto leggere, per chi come te è costretto dalla vita, oltre che degli interessi personali, a leggere tanto, probabilmente a un certo punto dice che questo libro si poteva non scrivere, questo libro si poteva non pubblicare, questo libro è uno dei tanti che si affastellano in una biblioteca o in una libreria, invece tu, insomma, hai dovuto scrivere te stesso, hai cercato di fare un libro che immagino fosse il tuo libro preferito, con tutti gli ingredienti che tu avresti trovato volentieri in un altro libro. Non l'abbiamo mica preparata, non l'abbiamo mai preparata le nostre. Bella questa domanda. Se vuoi te la faccio un'altra volta. No, no, molto. E... No, so, ripetimi la domanda. Ma tu intanto studi, tu sei santo, fai come classi, delle pause. Sì, questo non lo dovevi dire. Non volevo dire, va bene. Allora, volevo chiederle, Marco Forni, scusi se l'ho interrotta, semplicemente se il libro che lei ha scritto era il libro che lei avrebbe voluto leggere. Ah, sì, ok. Vedete cosa succede, insomma, no? Perché l'emozione è istintiva, il sentimento invece si costruisce con le emozioni, no? Te lo rifaccio? Sì, no. Perché non è semplice. Sì, è il libro che avrei voluto scrivere e che poi in corso d'opera c'era anche il dizionario, cioè questo devo ammetterlo, insomma. Non posso che chiamarmi fuori, cioè io ho la fortuna di appunto occuparmi di lessicografia, cioè io mi occupo di parole dalla mattina alla sera di mestiere, e quindi il romanzo non è che sia andato per conto suo, cioè cammin facendo c'era appunto da una parte il dizionario, dall'altra parte quindi è in parte il romanzo che avrei voluto scrivere, perché se lo riprendo in mano adesso io toglierei ancora parole. Perché vedete, c'è una logorrea, se ci fate caso, una logorrea di parole, no? E noi continuiamo dalla mattina alla sera a scrivere SMS, no? L'acronimo che tutti conoscono, siamo meno soli, cioè o siamo meno soli o siamo meno soli come constatazione. Quindi non è che ci siano meno parole, c'è una logorrea di parole, un continuo. Però secondo me la parola dovrebbe, non sempre, però ogni tanto portarti a limitare delle cose che non osiamo fare, ad esempio abbracciare qualcuno, cioè un abbraccio. Non è che mentre abbracciamo qualcuno, sì, poi ti volevo dire che appunto stamane sono andato a farmi un giro e ti dico, oh, pazzesco. No, un abbraccio si abbraccia con il silenzio, oppure un sorriso. Ci sono troppi sorrisi imparatici, no? Questi sorrisi di circostanza. Se voi fate caso invece al sorriso di un bambino, osservate il sorriso di un bambino, ecco, ognuno riesce a leggerlo con il proprio alfabeto, con la sua lingua, sul volto di un bambino quel sorriso. Non è che abbia bisogno di traduzione, poi crescendo magari prende un'altra piega, anche può capitare. Per cui, come dice Chekhov, il segreto sta nel togliere. Mi sosteneva questa cosa, ma sosteneva anche Michelangelo, la scultura, tanti altri grandi autori, mi grandi scultori. Un po' con questa cosa. Sì, ma infatti non mi hai risposto, per cui sto prendendo tempo, perché magari poi te la rifaccio, vediamo se te ne accorgi. Perché comunque per me è importante, perché lo dico anche a me stesso, io cerco ogni volta di scrivere l'articolo che vorrei leggere, evidentemente. Certo. Non so se ci riesco, probabilmente non ci riesco, però per esempio cerco di essere breve perché immagino un lettore. Montanelli diceva questa frase molto bella, cioè diceva: quando l'articolo gira, girano anche le palle. È un francesismo usato a Montanelli, cioè almeno per me. Però è vero, cioè quando già devi girare la pagina per seguire un pezzo del direttore, insomma, già te lo perdi, insomma. Per cui sto molto attento a queste cose, cerco di scrivere quello che vorrei leggere, e qualcuno dirà: ma cosa vuoi leggere colui che scrive quelle cose? Però per te è diverso, perché hai scritto il romanzo che può essere uno dei 26 che scriverai, però può essere anche il romanzo della tua vita, per cui hai dovuto scrivere il libro nel quale hai cercato di esserci fino in fondo. Ti faccio un esempio: c'è una setta, c'è il giallo, ci sono i ragazzi, ci sono le generazioni, per cui c'è anche un po' di romanzo di formazione, anche se in modo molto particolare. C'è il territorio, c'è un rapporto molto forte con la natura, poi a proposito di orso. Allora, tutto questo sono gli ingredienti necessari per fare il libro migliore? Ci si può mettere a tavolino dicendo un po' di sale, per cui un po' di setta, un po' di giallo, per cui un po' di pepe, e poi altri sapori che sono le generazioni, queste famiglie strane, questi amori curiosi, quasi come i nomi che usi, ci sono delle cose bellissime. Prima di Parloni mi ha già detto che è un cognome, però non so, per esempio, le medicine si chiamano Puesil e Rimasil, e potremmo fare molti altri esempi sulle parole che tu stesso definisci esplose indigeste. Non serve ricetta medica. Sì, indubbiamente ci sono tutti questi aspetti, insomma, che tu dici, ma mi ritorna più marcatamente ancora, cioè questo romanzo non sarei stato in grado, cioè non avrei avuto lo stimolo di scriverlo 10 anni fa, non sarei stato in grado di farlo, insomma. Certi momenti mi soffermo, anche se c'è anche forse una sorta di compiacimento sulla potere narrativo di una singola parola o della sequenza di determinate parole, questo è vero. Questo intreccio è un giallo, indubbiamente, ma questo è in superficie. Cioè, secondo me questo romanzo consente diversi piani di lettura, non è che ti imbriglia come dire, dalla prima pagina all'ultima pagina. Questo è anche voluto, perché diciamo io ho dedicato molto tempo alla scrittura, per me l'importanza della punteggiatura è importantissima, cioè è un profondo rispetto del mestiere anche di scrittura, quindi c'è questa volontà e questo mestiere anche, se vogliamo, no? Della scrittura. Però torno a ripetere che tante volte mi sono alzato anche, e questo lo vedo molto positivamente, con le pagine bianche, cioè io ci ho perso delle ore anche su pagine bianche, e si scrive molto di più, perché io ho avrei delle risme di pagine che mi sono anche servite per arrivare dove non sapevo in anticipo che sarei arrivato, insomma, no? Quindi ci sono anche dei percorsi, come dire, delle transizioni dove dicono che cavolo sto scrivendo, cioè dove mi sembrava anche di essere qualcun altro, poi a un certo punto, con questo, non dico tergiversare, ma con questa attesa sospesa, arrivavo, quindi la coscienza di quello che stavo facendo, ma nel contempo anche questa era un po' in balia anche di quello che accadeva, insomma, perché quello che nasce sono delle cose incredibili, insomma. A proposito di risme di pagine, il vento delle parole le può scompaginare? Cioè il finale può diventare la parte iniziale, lo sviluppo cambia, a un certo punto puoi scomporre il libro? Perché a volte c'è la sensazione, per esempio, che in alcuni capitoli tu magari abbia addirittura rovesciato, no, il capitolo, per renderlo ancora più curioso. È solo una sensazione questo vento di parole che stravolge la trama, o c'è davvero? C'è, però l'inizio e la fine nel mio caso è obbligato, cioè io dovevo avere assolutamente, dovevo capire dove andare a parare, insomma. Quindi l'inizio e la fine sono stati due cardini, quindi ci sono stati. Dentro invece ci sono state di quelle burrasche indescrivibili, insomma, e bisogna lasciarle cadere, guai frenarle, guai controllarle, quindi bisogna lasciarsi trascinare anche da quello che succede mentre uno sta lì davanti a il compagno in questo viaggio è lo stare soli. Bisogna stare molto soli, cioè e devi stare bene anche in tua compagnia. E ecco. In chi ti piace identificarti a distanza di tempo? Più nel raccoglitore dei rifiuti, che è un raccoglitore di rifiuti anomali, più nel becchino anomalo a sua volta, più nel ragazzo che comunica con gli stuzzicadenti perché gli è vietato parlare, o sei in ognuno di questi personaggi un po'? Ma mi diverto, diciamo, oggi ho ripreso in mano dopo tanto tempo queste pagine. Anch'io, se vuoi, nel senso che ho trovato un libro nuovo. Sì, mi piace riscoprire, diciamo, questi personaggi, no? Perché poi ho ragionato molto sui nomi anche, no? Imelda Stizzi è quella persona lì che io conosco di Bolzano, che quella è stata per me la fonte ispiratrice, che nessuno scoprirà mai. No, no, spero anche per te, perché sì. Potrebbe restarci male. Poi, magari poi, in sala. No. quindi, come dire, c'è una forma di affetto sicuramente, ma poi a riprendere in mano riscopri dei personaggi e non ho una predilezione. Sì, magari il raccoglitore di rifiuti, perché questo è lì. Descrivilo un po', magari, no? Descrivilo, facci capire. Sì, che rifiuti raccoglie, come? Cioè, questa è la passione di raccogliere i rifiuti, cioè lui fa collezione di rifiuti, cioè tutte le cose che la gente comune butta via, lui ha questa fisima di raccoglierle. E vive in una stamberga, e uno entrando in casa, quando entrerete, se qualcuno di voi avrà l'avventura di entrare in questa casa, è una casa stranissima, perché lui ha le pareti tappezzate di vitalli di giornali, con delle parole accerchiate, con sottolineate, e poi c'è tutta ci sono tutta una serie di barattoli appesi al soffitto, barattoli arrugginiti, e lui si diletta ad italiare queste parole e infila dentro questi barattoli, mette dentro questi barattoli. Perché? Perché lui dice, insomma, lui è balbuziente, a 14 anni è successo un patatrac che gli ha cambiato la vita, ha iniziato a balbettare, lui prima riusciva a parlare come uno di noi. Lui dice che queste parole non gli servono più, insomma, li prende, le ritaglia e li infila dentro questi barattoli. Sì, è un personaggio molto, come dire, contrastato, combattuto, ma poi uno che si sporca, è uno che si sporca, sporca le proprie convinzioni, le proprie e poi si ripulisce, magari anche più pulito di tanti altri, perché all'interno di questo romanzo ci sono dei personaggi, c'è ad esempio Mistria, no? Che è una serpe, proprio, poi alla fine si scopre che magari è molto più positiva di tanti altri. Cioè, ci sono queste diverse sfaccettature, uno come si presenta esteriormente di fronte agli altri, e c'era magari dietro di sé un altro io che nasconde, che non vuole rivelare. Per cui si possono anche abbattere un po' di luoghi comuni, perché a questi personaggi strani poi ci si affeziona, ci si affeziona al raccoglitore che viene guardato in un modo nuovo da chi legge, ci si affeziona a persone che sembrano mostruose e poi mostruose non sono. Per cui serve anche per sfatare i luoghi comuni, serve anche per darci nuovi occhi capaci di leggere in modo diverso quella realtà che ogni giorno fatichiamo a leggere. Sì, indubbiamente, perché noi abbiamo qualcuno può avere la cattiva abitudine, tu guardi una persona, la vedi, dici ho capito tutto, quello lì va classificato in un certo modo. E io li ho scoperti, non è che io fossi cosciente delle singole personalità di questi personaggi, di come si disegnavano cammin facendo. Quindi a me serviva, certo, Mistria, questo personaggio molto ambiguo, molto che poi cammin facendo cambia, diventa altro. Ma questo perché noi in definitiva partiamo anche da un presupposto: noi siamo così. Perché? Perché qualcuno ti pensa in due solitamente, dopo 9 mesi ci sei o non ci sei, dicono, no? Vai all'anagrafe, ti appioppano un nome. A volte nascono prima, a volte ci sono queste cose. Sì. Ti appioppano poi un cognome che ti crea tutto un parentado che tu non hai scelto. Sono delle persone che ti vengono messe lì. Quindi devi avere dei rapporti con queste persone. Quindi sì, devo dire che proprio nella scrittura, in questo cammino, quindi noi non siamo, noi diventiamo quello che magari possiamo anche essere, e adesso non voglio impegolarmi in una cosa, ma insomma il nostro è un continuo divenire, ecco questo. C'è una pagina che voglio leggere, ti autorizzo a leggerne altre come se fossi Marco Forni. Mattia, prima di alzarsi, teneva gli occhi cerati socchiusi, sbirciava compiaciuto le lattine che pendevano dal soffitto, invischiate in una trama di ragnatele. Il pavimento e i muri erano tappezzati di ritagli di giornali datati. Le notizie del giorno avevano il fiato corto, bastava un domani per stropicciarle nei dimenticatori della memoria. Assemblava parole, prese da diversi articoli che assumevano delle sequenze lessicali bislacche. Vittima colpevole chiede scusa, aggressore innocente, assassino, condanna giudice ergastolo, la delinquenza fa causa allo Stato, escort, non è vecchio modello automobile Ford, ho voglia di dire la verità, mento, non ho scritto le parole che ho scritto, le parole non abitano più qui. Antonio Mastrandrea, un insegnante di lettere in pensione, ogni tanto andava a trovarlo. Da poco gli era venuta a mente la moglie, portata via da una morte cattiva. Ma le parole non abitano più qui. Il valore di ogni singola parola. Anche in questa brevissima lettura penso abbiate capito come Marco si ferma su ogni parola, come cerchi la parola perfetta, la parola che a lui sembra non solo più giusta, ma che sembra avere il suono migliore. Tu dicevi prima che con poche lettere abbiamo scritto di tutto, con 7 note abbiamo alfabeti che continuano a evolversi, no? Pensa alla musica, ecco. Allora io dico, queste parole, da una parte un po' di polemica, se non sono io, ma davvero il fiato corto? Sapete perché lo chiedo? Perché una volta Marco ho fatto questa domanda. A me capita quando vedo, per esempio, non so, un negozio di ristrutturazione Bolzano, sotto i portici continuano a cambiare le insegne di questi negozi. Ci sono le vetrine tappezzate di giornali, spesso il mio giornale, la cosa mi diverte. La gente si ferma a leggere. Non so se ci avete fatto caso. Perché dico, ma come è fiato corto? Se dopo 6 mesi leggono come se niente fosse, è peggio di sentire di una soppopera, no? E però la gente si ferma e legge, per cui da una parte c'è il fiato corto, dall'altra ci sono notizie senza tempo. Per cui dove sta la verità se questa gente si ferma a leggere il giornale datato che gli imbianchini hanno usato solo per proteggere la vetrina? Perché in questo caso si soffermano, appunto. Quindi le parole e quello che riescono ad esprimere possono ritornare. Però in questa frettolosità, cioè noi siamo presi, insomma, se ci pensate, il nostro sistema ci impone orari di lavoro folli, insomma, no? Dalla mattina alla sera. Ma quanto spazio abbiamo per soffermarci magari su un articolo, su un'opinione, su una... è che noi ci lasciamo propinare contenuti e pensieri invece di alimentare i pensieri nostri, insomma, di condividerli con altri. Per questo dico che un articolo di giornale ha il fiato corto. Poi appunto si riesce con l'orsa a catturare, alimentare l'interesse, perché tutti poi si sentono un po' protagonisti anche di questa storia, perché poi, ma poi questa cosa, questo interesse fatalmente scemerà, andrà a perdersi, verrà meno un po' alla volta. E quante volte io adesso ho avuto così, un articolo di giornale diventa anche un motivo di incontrarsi, di scambiare 4 chiacchiere, di parlare, di discutere insieme, senza che ci sia nulla di definitivo. Quante volte accade? Io ad esempio i tuoi editoriali li leggo sempre con piacere, però se fosse all'interno messo in un certo modo cosa, magari lo leggi con maggiore disattenzione, cioè dipende come messo. Se fosse più lungo, allora non si legge più. Perché? Perché devi riprendere in mano un'altra cosa, cioè noi siamo affamati di fame, ma essere affamati di fame è inesauribile. Per questo voglio dire, ogni tanto basta anche una sola parola, una sequenza di poche parole per farti reagire in un certo modo. Invece queste fiumane di parole che ti cascano addosso Ecco, una buona idea sarebbe alle fermate degli autobus prendere i giornali. Quello potrebbe essere un'idea. La ringrazio. Si immagini, è un piacere. Immagino che ci tenga. Sì, la madre di Italia dice che almeno ci sarebbe una ragione. Allora, voglio farti un'ultima domanda, perché poi voglio coinvolgere il pubblico, perché mi piace sentire anche chi ti legge, chi è venuto ad ascoltarti, chi magari ha scoperto di questo appuntamento leggendo il giornale. Perché la setta rapisce i bambini piccoli? Perché il mondo si costruisce solo dal futuro, o ci sono altre spiegazioni nei gradi diversi di lettura del tuo libro? Perché vincono sempre loro alla fine, vincono sempre i bambini, perché sono andato a prendere i bambini perché sono quelli più forti, perché come dicevo prima, il sorriso di un bambino, noi per quanto lo quaci, per quanto ferrati, per quanto bravi possiamo essere, però sotto il sorriso di un bambino, se condiviso, ti spogli completamente, non è che abbia bisogno di tante spiegazioni. Quindi è importante che noi coltiviamo dentro di noi questo fanciullino, questo bambino, cioè che usiamo a fare anche quelle cose che magari le facciamo di nascosto, cioè di meravigliarci, di stupirci per cose piccole, che lui alla fine, ragazzino, che non conosce Galileo, quello lì famoso, no? Il più noto, non lo conosce, però com'è che finisce? Vuoi rovinare il finale? Non lo dico. Non so, vedi tu. Ah no, va bene, non hai venduto così tanto che ormai puoi rovinare il finale? No, allora cerco di aggirare la cosa. Sì. Perché i bambini non hanno bisogno di parole per innamorarsi del mondo. Mi sembra un bel finale. Ti devo solo un'ultima domanda: ci dovevi una parola di 7 lettere, ce la riveli? Non ci hai promesso una parola finale, una parola chiara. Sì, me la rivelo, perché appunto è la parola. Lo so, però. Però l'ho già. L'ho già rilevato, l'ho già rilevato. Sì, ma adesso vai oltre, spiegaci, dato che tutto sta in una parola. In questa finitudine che è la nostra vita, abbiamo la fortuna appunto che non esiste la lingua perfetta, cioè io mi sono reso conto dopo questa avventura che non esiste la lingua perfetta, però forse esistono alcune parole che sono un racconto inesauribile. Una di queste parole è racchiusa in 7 lettere. Io ho ripetuto questa sera 7 perché è una simbologia che ricorre spessissimo nel romanzo, quindi io mi diletto anche un po' di antropologia, ho scritto alcune cose anche di antropologia, e questa parola è ognuno con la propria lingua, ognuno con il proprio alfabeto, può leggerla appunto nella propria lingua, con il proprio alfabeto, però solo sul volto di un bambino. E questa parola è il sorriso. Grazie Marco Forni. Allora chiedo a voi se avete voglia di chiacchierare con Marco, se avete voglia di provare. Prego. Sì, ha ragione il direttore Faustini. La prima di copertina è bellissima, però mi sembra anche molto bello il titolo, molto lieve. E questo perché ricordo tempo fa di aver letto un libro di Cesare Viviani che diceva: non date le parole ai porci. Titolo molto pesante. Sì, le parole sono importanti. Chi parla male, pensa male e vive male. È anche vero che le parole giuste possiedono una specie di virtù creatrice e catartica. Ma come sappiamo di più sulle parole oggi, che possiamo in qualche modo vedere il pensiero, o almeno l'ombra, per così dire, che si proietta nei nostri circuiti neuronali. Certamente ne sappiamo di più. Sappiamo ad esempio che il nostro dizionario non cataloga le parole solo per senso o suono, ma anche per categoria e morfologia. Così nomi e verbi si correlano a reti neuronali distinte, anche se ovviamente parzialmente sovrapposte. Importante saper usare le parole come esseri viventi, carezzare le frasi per farle sorridere. Molto bene. Io scrivendo appunto questo romanzo ho acquisito un rispetto profondo per l'uso delle parole, perché appunto c'è un, secondo me, un uso pacchiano troppo spesso, insomma, no? Del, non è che si parli di meno, ma si parla a sproposito, no? O turpiloquio. E poi fate caso anche a un'altra cosa, c'è la cadenza. Perché si urla tanto? Perché siamo tutti sordi, ma è quello che esprime quelle parole che ha sempre questa sensazione di non sentirsi. E penso che sia atroce questa cosa. E allora si sbraita, si urla. A me è capitato tanti anni fa, dico, non ti sento, caro. Se non abbassi la voce, io non ti sento. Chissà perché è arrossito. E ci siamo messi, abbiamo iniziato a parlare. Ha iniziato a usare parole che non aveva mai usato prima, ma stavano dentro di lui. Quindi, questo secondo me, invece, spesso in televisione, è un, perché poi fanno dei corsi, no? Perché tu non è che devi esercitare l'ascolto. Cosa fanno? E questo è proprio voluto, cioè sovrastano sempre, no? Cioè questo continua a rimbeccare, non gliene frega assolutamente niente quello che dice l'interlocutore, si continua a urlare, si continua a sbraitare. Ecco, in questo, se rovesciamo diciamo, non ti sento, succede qualcosa. Grazie. Allora, grazie. Altre domande, altre considerazioni? Ti chiedo solo, ti è venuta voglia adesso di scriverti il romanzo, cioè ti è venuta voglia di iniziare un'altra vita, anche professionale, anche se si sa che in questo paese diventa ricco scrivendo libri solo con Novespa per le ragioni dette in premessa, però c'è qualcosa che ti spinge a restare in questo mondo nuovo? Io non lo so, dirò una cosa magari che può sembrare anche scontata, ma io sono innamorato della vita, veramente, e questo lo devo ai miei genitori che mi hanno fatto il regalo della loro assenza. Il regalo della loro assenza è che papà l'ho perso, lui aveva 49 anni, quindi io adesso ho già recuperato 4 anni, insomma. E mamma con 62, sono già tanti anni. E loro mi hanno lasciato questo patrimonio di amare e abbracciare la vita e di cogliere. Adesso per dire, no? Per me la cosa più importante è quella di essere qui con voi, non è che ci sia altro. Questo per me è la cosa. Oppure con Alberto, no? Mi ha mandato un SMS, acronimo che voi, come sapete, siamo meno soli, con interrogativo, senza, poi sarà una considerazione o un interrogativo. Sono sommerso, ci sentiamo 5 minuti prima. Però c'è una corrispondenza, non è che succedono delle cose bellissime questa sera, lo stare insieme a voi e stare insieme a Alberto, e quanto vale? È tutto, diventi parte di una questa sensazione di stare insieme, quindi quindi ecco, c'è questo innamoramento per la vita che è diventato un virus. E poi quando sa si lascia. Grazie per questo sms finale, devo dire, insomma, ci lasci facendoci pensare molto, perché ci lasci con una parola negli occhi. No, ma nel senso, se mi lasci non vale, diceva appunto. Sì. Può essere una spiegazione. Ci lasci con una parola negli occhi, grazie Marco Forni, grazie a tutti voi per la bontà e la pazienza, grazie a Valeria di averci invitato. Grazie. Buona serata. Valeria, non so se vuoi dire invitarmi.